Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Mebius è sabato, ciao Simona. Ciao Federico e buonasera a tutti e tutte voi che ci state seguendo qui su Radio 24. Allora, da che cosa cominceremo? Da storie di naufraghi e di naufragi, quindi partiamo dal fondo del mare per poi andare in laboratorio a capire come nasce un vaccino. E poi molluschi e pescecani, quando devono andare a cercare del cibo, adesso vi sembrerà strano, ma fanno un po' la stessa cosa. E infine, quando una protesi si accompagna al nostro corpo, beh, insomma, la nostra mente può avere dei problemi. Incominciamo. Le navi vanno anche a fondo, lo sappiamo. Eh sì, navi, transatlantici, vaporetti, motoscafi, petroliere, insomma imbarcazioni di tutte le dimensioni possono inabissarsi, possono sprofondare ed essere trascinate nei fondali. E ogni paese, ogni popolazione ha le sue storie. E storie di naufragi e di naufraghi sono quelle che sono raccolte nel libro curato da Marco Cuzzi, che insegna storia contemporanea all'Università di Milano. Buonasera Cuzzi. Buonasera, buonasera a voi. Naufragi, storia dell'Italia sul fondo del mare, appunto il titolo del libro che lei ha curato. Praticamente 100 anni di naufragi del nostro paese. Sì, sì, in qualche modo si ricostruisce la storia d'Italia, diciamo i vari appuntamenti storici importanti che l'Italia ha avuto in qualche modo attraverso queste sciagure, questi disastri navali. Qual è il primo naufragio che lei racconta? Il primo che raccontiamo in realtà è l'unico che non è italiano dal punto di vista, diciamo, dell'armatore, perché è il naufragio più famoso del mondo, quindi il Titanic. Raccontiamo il naufragio del Titanic però attraverso l'esperienza degli italiani che erano a bordo del Titanic. 15 aprile 1912, questa nave va a fondo e a bordo ci sono anche degli italiani ed è la loro storia che raccontate nel libro. Esatto, Claudio Bossi, che è il, diciamo, lo storico italiano più famoso del Titanic, anche a livello non solo italiano, ci racconta alcune vicende che riguardano questi personaggi sconosciuti, quei pochi, perché ovviamente un biglietto sul Titanic in seconda, in prima poi non ne parliamo, classe costava tantissimo all'epoca, e quindi ben pochi italiani potevano permettersi, tant'è che non ce n'era nessuno di prima classe, ma c'erano alcuni di seconda, più naturalmente quelli di terza, tra cui questo Sebastiano Del Carlo, che è un toscano che si comporta da eroe, salvando la moglie e affondando con la nave. Andando un po' avanti con gli anni, c'è sì, un altro naufragio che lei proprio direttamente racconta. Avviene il 26 ottobre del 1927, parliamo della principessa Mafalda. In questo caso quindi ci spostiamo in Liguria e lei racconta anche la storia che c'è dietro questa nave, quindi l'innovazione e la lungimiranza dell'armatore all'epoca. Erasmo Piaggio, esatto, sì, un armatore particolare, faceva parte di quella generazione di italiani che aveva partecipato al Risorgimento, era un garibaldino. E poi naturalmente era diventato anche un imprenditore, un armatore, ma aveva mantenuto questo spirito un po' irruento ed in qualche modo aveva cercato di unirsi al coro politico che verso la fine dell'Ottocento, inizi del Novecento era molto diffuso in Italia, di fare del nostro paese la più grande delle piccole potenze o la più piccola delle grandi potenze, anche nel suo caso attraverso la costruzione di un grande transatlantico, anzi di due grandi transatlantici. Ovviamente le dimensioni, le stazze non erano quelle del Titanic, dell'Olympic, del Britannic, cioè o dell'Lusitania o del Mauritania, che erano le navi più grandi che giravano allora, però erano dei buoni transatlantici, eleganti, di lusso. Dove affonda il Mafalda? Al largo del Brasile. Ma al largo del Brasile è una storia tragica, come tutte le altre peraltro, direi di egoismo da parte degli armatori. Poi Piaggio ormai non era più, aveva passato la mano, ma diciamo che questa volontà di mantenere l'avidità, direi, degli armatori, perché questa volontà di mantenere a tutti i costi, mentre si rinnovava la flotta, la linea fece sì che dopo la prima guerra mondiale il Mafalda, ormai vecchio, superato e mal concio, continuasse a fare la rotta proprio per non farsi sottrarre, diciamo, spazi di mercato dagli altri concorrenti. E quindi questa nave, che una volta era lussuosa e che si stava un po' trasformando in una carretta, viene appunto sfruttata fino all'osso, finché, questo era l'obiettivo della compagnia navale, finché non sarebbero stati varati nuovi bastimenti. E quindi nel 26 si ritrova al largo del Brasile, dopo aver fatto una traversata veramente terribile, si rompono i frigoriferi, si inceppa l'albero motore di una delle eliche, e infine la disgrazia vuole che che l'albero motore esce dai cuscinetti e in pratica perde un'elica la nave. A quel punto si inclina e piano piano affonda. Marco Cuzzi, voi tra l'altro nel libro lo sottolineate, noi siamo purtroppo testimoni quasi ogni giorno di immense tragedie che avvengono in mare, nel nostro mare. Voi avete fatto proprio una scelta, quella di raccontarne alcune, l'ultima che raccontate del 2012, e avete scelto delle storie che in qualche modo diventano quasi emblematiche del nostro paese. Nell'introduzione, per esempio, si legge che raccontate proprio un pezzo di storia da cui emerge l'Italia che ne approfitta e l'Italia che soccombe, che soffre. E l'Italia coraggiosa, direi. L'Italia vigliacca, l'Italia coraggiosa, l'Italia che appunto ne approfitta, che soccombe, pasticciona, generosa. Sì, in qualche modo nell'introduzione ho cercato di spiegarlo dicendo che diventa un po' un palcoscenico la nave che affonda. L'abbiamo sempre affrontata con molto rispetto questa vicenda, tutte le vicende, il grande rispetto verso le vittime innanzitutto, e anche il grande rispetto verso chi si è comportato con coraggio, e sono stati in tanti. Però è un palcoscenico dove in qualche modo appaiono queste figure, queste quasi una sorta di commedia dell'arte, sempre tenendo ben presente la tragedia, dove i protagonisti diventano le maschere che rappresentano i vari tipi di italiano. Quindi in poche ore va in scena l'Italia, nel suo bello e nel suo brutto. Però anche la vicenda del Titanic fu, no, una cosa in cui c'era una doppia faccia, la grande nave tecnologicamente avanzata, e poi aveva scialuppe per solo metà della gente a bordo, insomma, che tutti analizzarono già da allora, fu la causa principale dei 1000 passa morti. Certo, è l'avidità, è quello che è un difetto che c'è nel tanto in Gran Bretagna, nel caso del Titanic appunto, quanto anche in Italia. Di fatto, se ci pensate bene, quello che ho raccontato del Mafalda, ma si potrebbe raccontare di tanti altri episodi, cioè questa volontà di a tutti i costi guadagnare, fatto era quello, non è molto dissimile da quello che la White Star volle fare sul Titanic, impedendo l'allestimento di ulteriori scialuppe per dare più spazio a cabine, più spazio a passeggeri, insomma rendere più remunerativo l'operazione a discapito della sicurezza. Quindi sì, questa cosa è assolutamente presente. E allora ricordiamolo, il titolo del libro: Naufragi, storia dell'Italia sul fondo del mare, a cura di Marco Cuzzi. Ma come abbiamo sottolineato prima, un libro che racchiude tante firme, appunto tante storie. Grazie Marco Cuzzi, buona serata. Grazie a voi, buona serata a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Ci sono le strade, ci sono le macchine, sentiamo che cosa stanno facendo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono ciclicamente al centro di accesi dibattiti. Parliamo di vaccini, anche noi tempo fa ne abbiamo parlato, chiedendoci innanzitutto se la scienza sia o no democratica e riflettendo su come gestire una corretta comunicazione. Oggi torniamo a parlare di vaccini perché vogliamo portarvi nei laboratori di ricerca per capire come nascono i vaccini, e lo facciamo con Rino Rappuoli, considerato il padre dei vaccini moderni, a cui è stato conferito il premio europeo dei brevetti Olivetti 2017 per la sua ricerca sui vaccini, per aver sviluppato proprio delle innovative tecnologie di produzione. Un premio alla carriera, una carriera appunto dedicata alla prevenzione delle malattie, perché lo ricordiamo, a questo servono i vaccini. Buonasera. Buonasera. Lei è responsabile scientifico della GlaxoSmithKline. Sì, sono responsabile scientifico della parte di GlaxoSmithKline che è dedicata ai vaccini. Ecco, lei ha detto: credo che nel mondo non esista un lavoro più bello del mio. Perché? Beh, perché dalla ricerca che noi facciamo escono dei prodotti che sono i vaccini, i quali una volta che vengono usati riescono a eliminare completamente delle malattie che uccidono o bambini, adulti, anziani, e spesso se non uccidono causano delle malformazioni a volte permanenti e quindi sono molto devastanti. Le nuove generazioni hanno dimenticato tantissime malattie che una volta uccidevano milioni di persone. Dal vaiolo alla difterite, il tetano, la pertosse. A proposito dei dibattiti che ciclicamente si riaccendono in merito ai vaccini, a volte si sottolinea proprio il fatto che sono forse vittime del loro successo, cioè abbiamo perso la memoria di alcune malattie appunto che sono state debellate proprio grazie ai vaccini. Però senta, noi vogliamo cercare di capire in fondo come nasce un vaccino e soprattutto come è cambiata nel tempo la produzione dei vaccini. Sì, dobbiamo partire alla fine del Settecento dal vaiolo, con Jenner, che era un medico di campagna inglese, che aveva notato che mentre il vaiolo stava devastando il paese, aveva notato che le persone in campagna che mangiavano le mucche non prendevano questa malattia, e poi ha capito che non lo prendevano perché mungendo le mucche si contaminavano con il vaiolo bovino e questo li proteggeva dalla malattia. Da qui ha capito che se prendeva le croste delle mucche e le usava per darle agli uomini, essenzialmente questi sarebbero stati protetti dalla malattia. Da qui è nato il nome vaccino, perché arrivava appunto dalle mucche. E poi essenzialmente ci è voluto un secolo, alla fine dell'Ottocento, quando Louis Pasteur ha capito che le malattie erano dovute a agenti infettivi, batteri, virus e parassiti, e scientificamente ha introdotto il primo vaccino contro la rabbia. E poi da lì in poi i vaccini si sono moltiplicati e fino agli anni 1980 i vaccini sono stati fatti essenzialmente con la tecnologia un po' di Jenner. E quello che bisognava fare era crescere il virus, il batterio che causava la malattia, e ucciderlo e iniettarlo, oppure renderlo innocuo e iniettarlo, oppure purificare dei componenti di questo agente e iniettarlo. In pratica veniva attenuata l'aggressività del batterio, del virus, in modo tale da comunque innescare una risposta immunitaria. Esatto, quello che si faceva essenzialmente, si metteva il nostro sistema immunitario a contatto con l'agente che causava la malattia, dopo aver reso innocuo l'agente che causa la malattia. Arriviamo ai suoi vaccini, arriviamo quindi all'inizio degli anni 90, quando lei praticamente cambia, contribuisce a rinnovare proprio il processo di produzione dei vaccini ed entra in campo l'ingegneria genetica. Dalla fine degli anni 70 e inizio anni 80 essenzialmente sono venute fuori le nuove tecnologie. La prima è stata il DNA ricombinante, che ci hanno permesso di fare cose che Pasteur e Jenner non avrebbero mai potuto fare, perché erano cose che si potevano fare solo con le nuove tecnologie. La prima cosa che è successa è quella di fare dei vaccini coniugati, in cui un polisaccaride batterico viene attaccato a una proteina, e questo ha permesso di fare dei vaccini che ormai stanno salvando milioni di bambini in tutto il mondo. Beh, il primo vaccino coniugato è stato... Il primo vaccino coniugato è stato contro l'Haemophilus influenzae, e poi è stato fatto lo pneumococco e il meningococco contro il meningococco HYW. Poi dalla tecnica del DNA ricombinante è venuta la pertosse, e lì è stata la prima volta in cui essenzialmente abbiamo usato la potenza del DNA ricombinante per manipolare il genoma del batterio che produceva una tossina potente che doveva far parte del vaccino, e noi abbiamo essenzialmente, cambiando poche basi del DNA del batterio, ingegnerizzando appunto il genoma del batterio, siamo riusciti a fare un batterio che produceva una tossina che non era più tossica, che era un vaccino che funzionava benissimo. Non era tossica, ma sufficiente ad allertare il sistema immunitario. Esatto. Senta, poi ha iniziato a collaborare, perché se non sbaglio la collaborazione continua tuttora, con Craig Venter, che è insomma lo scienziato imprenditore statunitense che è stato ed è uno dei protagonisti indiscussi nel campo della genomica. Sì, quello è stata una cosa che è successa alla fine degli anni, verso la metà degli anni 90, quando ormai avevamo risolto con le nuove tecnologie meningococco HYW e Y, avevamo risolto la pertosse, e c'era un batterio che non riuscivamo a risolvere con le tecnologie tradizionali che avevamo fino a quel momento, che era il meningococco B, che causava circa il 50% di tutte le meningiti nel mondo. E noi, come tanti altri, avevamo provato a risolvere il problema e a fare un vaccino contro il meningococco B, ma avevamo dovuto arrenderci perché le tecnologie che avevamo non ci permettevano di sviluppare questo vaccino. E quindi abbiamo messo un po' in disparte questo lavoro, dicendo che se una tecnologia rivoluzionaria fosse venuta a disposizione potevamo riprendere il lavoro e cercare di risolvere il problema. E abbiamo avuto fortuna, perché a metà degli anni 90, 1995, Craig Venter, che era già famoso, ma non così famoso come è diventato poi negli anni 2000, quando ha risolto il genoma umano. Nel 1995 Craig Venter ha pubblicato la prima genoma di un essere vivente, che era un batterio. E quella era una novità scientifica straordinaria, era una rivoluzione nel mondo, la prima volta che si vedeva, si poteva leggere come si può costruire un essere vivente, e mi è venuto in mente che quella tecnologia poteva permettere di risolvere il problema che non ero riuscito a risolvere prima, quello del meningococco B. Quindi sono andato a parlare con Craig Venter e l'ho convinto a sequenziare il genoma del meningococco B. Abbiamo fatto un accordo in cui lui sequenziava il genoma e ci dava l'informazione nel computer, e noi leggevamo l'informazione del genoma nel computer e usavamo quella per fare il vaccino. E è stata una cosa straordinaria. Perché il vaccino poi è arrivato. Sì, è arrivato. Ancora una curiosità. Si parla di vaccinazione inversa. Ci spieghi? Sì, abbiamo dato questo nome, che poi è diventato molto popolare, che vaccinazione inversa, in inglese è reverse vaccinology, e la ragione era semplice, perché come ho detto prima, fino al 1980 fare i vaccini bisognava essere microbiologi, isolare virus, isolare batteri, crescerli e renderli innocui. Quindi questo era il mestiere di chi ha fatto i vaccini da Jenner a 1980. Con questa nuova tecnologia che abbiamo messo insieme a Venter, noi non crescevamo più i microrganismi, ma partivamo dalla informazione che stava in un del genoma che stava in un computer. Quindi essenzialmente partivamo da leggere l'informazione sul computer, disegnare al computer un nuovo vaccino e poi fare il vaccino. Quindi il percorso era completamente inverso. Invece di crescere i microbi, noi facevamo un disegno al computer e poi trasformavamo quel disegno in un vaccino. Senta, ma più o meno quanto tempo ci vuole per produrre un vaccino? Cioè, in quanti anni di ricerca e poi di produzione il vaccino arriva disponibile sul mercato per essere somministrato? Beh, la storia che l'ho raccontato essenzialmente dice che noi avevamo cominciato a lavorare senza successo sul vaccino per un meningococco B prima degli anni, all'inizio degli anni 90, non avevamo avuto successo, avevamo smesso perché sapevamo di non riuscire a trovare una soluzione. Dal 1995, quando abbiamo capito che avremmo usato il genoma, abbiamo messo 5 anni fino al 2000 a rendere a scoprire componenti per il nuovo vaccino tramite la reverse vaccinology, tramite il genoma. Poi dal 2000 al 2013 abbiamo lavorato per trasformare questa scoperta scientifica in un prodotto, e questo è un lavoro che non è più un lavoro di scoperta scientifica, ma è un grossissimo lavoro di industrializzazione, in cui si prende la scoperta scientifica, si caratterizza bene, si trasforma la scoperta in un prodotto di cui si fanno tutti gli studi di preclinica, poi si fa la tossicologia, dopo 2 o 3 anni di questo lavoro si porta il prodotto che adesso si sa che si può produrre e che è innocuo, e si può portare alla prima sperimentazione nell'uomo, che si chiama fase 1, poi da lì se la fase 1 va bene si fa la fase 2, dopodiché in questo caso, siccome questo è un vaccino per i bambini, tutte le fasi iniziali si fanno per precauzione negli adulti e poi si comincia ad andare giù nei bambini e si fa una fase 2 nei bambini. Quando, e questo processo di fasi 1, 2, 3 richiede, 1, 2 richiede circa altri 5-6 anni. Dopodiché si fa la fase 3, che è quella che permette di testare l'innocuità e la funzionalità del vaccino in migliaia e migliaia di bambini. Quando questo è un processo che ci vuole altri 3 o 4 anni, nel frattempo si costruisce una fabbrica che poi possa produrre il vaccino e alla fine di tutto questo si prendono tutti i dati che ci sono stati generati dalla ricerca alla clinica e si sottomettono alle agenzie regolatorie, che sono European Medicinal Agency o EMA in Europa, Food and Drug Administration o FDA negli Stati Uniti, e che hanno circa un anno di tempo per rivedere tutti i dati, essere sicuri che il prodotto sia sicuro, che è la prima cosa importante, che sia efficace, che è la seconda cosa molto importante, e quando abbiamo convinto con tutti i dati che abbiamo, che in genere sono milioni di pagine, abbiamo convinto le agenzie regolatorie, loro finalmente dicono: siamo convinti, vi diamo l'autorizzazione a produrre e a vendere questo vaccino. Insomma, è un lungo percorso, come quello che ci ha appena descritto, per verificare e testare appunto che il vaccino sia appunto sicuro, innocuo e efficace. Rino Rappuoli, grazie per essere stato con noi ospite di Mebius su Radio 24. Buona serata. Grazie a lei, buona serata anche a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un mollusco che si muove come uno squalo. Tratta di una ricerca molto curiosa e per questo ve la vogliamo raccontare, una ricerca che è realizzata dall'Istituto dei Sistemi Complessi del CNR di Firenze e dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze. Con loro appunto ne parliamo, con Guido Chelazzi, docente di ecologia e presidente del Museo di Storia Naturale. Buonasera. Buonasera. E con Stefano Focardi, ricercatore del CNR di Firenze. Benvenuto anche a lei. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Dunque, attenzione, non che si muove perché il mollusco... Non nuota. Sì, ecco, non è che ha le pinne. È una movimentazione in un ambiente nel quale bisogna recuperare cibo. E allora io incomincerei con lei, Focardi, in modo da vedere questa, come dire, esigenza di fondo. Allora, gli animali si muovono in maniera molto diversa l'uno dall'altro, apparentemente le forme del movimento degli animali sono molteplici, ma come tutti i sistemi complessi ci siamo sempre chiesti se non esistesse qualche teoria, qualche metodo, diciamo, descrittivo del movimento degli animali che fosse comune a un gran numero di specie, quindi racchiudesse un gran numero di movimenti che sono apparentemente diversi. E una di queste teorie che sono state sviluppate per spiegare il movimento animale è rappresentata da questa teoria dei voli di Lévy. Voli di Lévy? Voli di Lévy, sì, sì. Lévy è il matematico che li ha inventati negli anni 30, che ha inventato, cioè, queste distribuzioni statistiche e matematiche, ovviamente. Poi più recentemente queste distribuzioni sono state applicate al movimento degli animali. E si è visto delle cose abbastanza che possono apparire buffe, diciamo, forse al profano, cioè che molti animali, anche esseri umani diversi, che fanno cose diverse, però ubbidiscono in qualche maniera alla stessa legge matematica, sostanzialmente. Questo è venuto fuori, per questo diciamo che le chiocciole si muovono come gli squali, non perché ci sia nulla a che fare fra l'una e l'altra, ma perché la teoria che descrive il movimento delle chiocciole è anche quella che descrive il movimento degli squali. In particolare descrive il movimento di questi animali in situazioni in cui il cibo è scarso. Io ho visto alcuni disegnini, alcuni grafici che voi avete ricavato dall'analisi sul campo. Per cercare di spiegarlo così un po' rapidamente, si vede come un gomitolo non denso di filo, no? In un certo punto, che descrive questi movimenti in tutte le direzioni del mollusco, per esempio, ma anche a questo punto dello squalo. Poi c'è una linea retta che è uno spostamento da questo gomitolo e c'è un altro gomitolino. Questo qui vorrebbe dire che è il sistema migliore per portare a casa il meglio dal punto di vista del cibo, della quantità. Allora, intuitivamente si può dire questo: se il cibo è molto concentrato, in qualsiasi modo ci si muova, si riesce a trovare il cibo, e dato che ci si ferma, l'animale si ferma quando trova il cibo, lo ingurgita e poi riprende la sua ricerca, è chiaro che questo disegno, diciamo così, un gomitolo, come dice lei, molto, molto fine così. Però se il cibo è scarso, questa strategia, questo modo di muoversi non ha molto senso, perché uno perde un sacco di tempo a cercare un cibo che non c'è. Allora è più opportuno dosare questi movimenti molto lunghi che permettono all'animale di portarsi in una zona dove c'è cibo e poi fare il movimento di ricerca locale del cibo. Allora Guido Chelazzi, proviamo a fare un attimino un passo indietro. Abbiamo detto che quindi questo tipo di movimento che le patelle fanno serve a minimizzare lo sforzo e massimizzare il bottino. Ma spieghiamo meglio che cosa sono le patelle e di cosa si nutrono. Le patelle sono degli invertebrati, molluschi, simili alle chiocciole terrestri che tutti noi conosciamo. Vivono in quel particolare ecosistema che è la fascia intercotidale tra le alte e le basse maree, che sulle nostre spiagge è molto ridotta, ma spiagge oceaniche può essere estremamente estesa e ospitare quindi una comunità biotica complessa, di cui le patelle fanno parte e svolgono un ruolo primario, cioè sono dei consumatori primari degli erbivori, così come in una prateria una gazzella, una pecora, una mucca. Quindi sono gli erbivori di questi ecosistemi. La loro alimentazione è costituita da film di alghe microscopiche che ricoprono il substrato, i ciottoli, i massi, la scogliera, sulla quale questi animali si muovono raspando letteralmente con un organo particolare, una specie di lingua molto, molto rugosa che si chiama radula. Che funziona un po' come una ruspa. Esattamente, quindi raspano il substrato e mettono dentro e aspirano, diciamo, una certa quantità di queste cellule, di queste alghe che costituiscono la loro base alimentare. Ecco, un'altra particolarità, e qui quindi torniamo a come si muovono, è che tra l'altro hanno degli orari particolari in cui vanno a cercare cibo. Esattamente, hanno dei vincoli temporali. In una zona, diciamo, investita da un sistema costiero dove sono presenti forti escursioni di marea, per esempio uno schema di funzionamento molto classico è che questi animali si muovano soltanto durante la bassa marea notturna. Il significato adattativo di questo è evitare lo stress della disidratazione diurna, evitare i predatori marini, e quindi la combinazione delle due cose genera questo quadro temporale di attività molto caratteristico. Specie diverse possono occupare, diciamo, segmenti diversi di questa combinazione fra giorno-notte e alta-bassa marea. E specie diverse, voi avete visto che possono seguire schemi simili di movimento, perché avete visto che le patelle si muovono un po', non dico a zigzag, però è come se facessero i tre passi avanti e poi un indietro, in maniera però caotica, non regolare. Esattamente. Allora, avendo a disposizione una finestra temporale molto stretta e tutto sommato delle disponibilità di risorse non eccessive, uno dei problemi è quello da risolvere immediatamente, è quello di implementare un sistema di ricerca di movimento che consenta di ottimizzare l'input energetico, diciamo, nel tempo disponibile. Ed ecco quindi che è venuto fuori che il loro quadro di movimento è esattamente il volo di Lévy. Ma Focali, tra una patella e uno squalo c'è un bel intervallo di dimensioni e anche dal punto di vista delle specie. Ci sono altri che applicano questo sistema? Si va da animali molto grandi, come un albatro, che è veramente un uccello molto grande, ai leucociti che stanno nel nostro corpo, che anche questi, per ricercare le loro piccole prede, i loro piccoli anticorpi, si attivano facendo dei voli Lévy. C'è tutto, diciamo, uno studio anche sul movimento cellulare di questi animali, dei voli di Lévy a livello cellulare. Senta, quindi, Focardi, diciamo, però i movimenti della patella immagino siano quasi impercettibili, eppur si muovono. Voi come avete fatto a monitorarli? Ma il metodo utilizzato è stato messo a punto dal professor Chelassi già ormai molti anni fa, ed è molto semplice concettualmente. Si tratta di mettere un piccolo LED luminoso sulla conchiglia di questi animali e poi riprenderli con una macchina fotografica. Dopodiché, da queste tracce fotografiche è possibile ricostruire il movimento. Loro abitano una piccola casetta, diciamo così, sulla scogliera, dove si proteggono. Tra l'altro una casa proprio su misura per la singola patella. Esattamente, una casa su misura. Da questa poi si spostano, fanno il loro movimento di foraggiamento e poi, prima che le condizioni tornino ad essere avverse, ritornano a casa. Mentre invece lo squalo, lì lo tracciate con un chip che riuscite a mettergli sopra? Sì, allora il metodo ovviamente è molto più complicato per gli squali, cosa che un lavoro che non faccio io direttamente. Fanno dei colleghi che l'hanno studiato e utilizzano dei sistemi acustici basati su delle reti di sonar per studiare il movimento di questi animali. Ecco, professor Chelazzi, chiudiamo con lei ancora con una curiosità. Aver studiato e capito come si muovono per procurarsi cibo gli squali o le piccolissime patelle può essere utile anche per ottimizzare alcune strategie comportamentali di noi esseri umani, o addirittura, per esempio, dei robot? C'è chiaramente un interesse intrinseco, viva Dio, ancora un po' di ricerca teorica di base esiste nel mondo, no? Che poi è la benzina, il motore che genera anche le applicazioni. Nel nostro caso, chiaro, la ricerca di pattern motori, di schemi di movimento che ottimizzano le performance di un organismo. Intanto si ragiona poi anche di voli di Lévy, come accennava Focardi, nei globuli bianchi, a livello addirittura, insomma, cellulare. Quindi lì si entra anche poi in un campo biomedico che può aprire orizzonti interessanti, anche applicativi in quel senso. Sul piano diciamo più generale, è chiaro che individuare delle forme di movimento che ottimizzino un risultato in termini di ricerca, sì, può essere, perché no, un sistema per far funzionare dei robot che noi mandiamo ad esplorare degli ambienti, a ricercare delle risorse o a ricercare degli oggetti indesiderati, o che ne so, a pulire il pavimento di casa. Ecco, cioè è chiaro che le applicazioni poi possono essere più diverse, si colano comunque nel campo della realizzazione di dispositivi che ricercano qualcosa, ecco, in modo efficiente. Qui a Mebius siamo grandi sostenitori della non esistenza di differenze tra applicata, esatto, e ricerca di base, come fare la differenza tra il sugo di pomodoro e gli spaghetti, quando non c'è nessuna possibilità di dividerli. E infatti, come diceva Federico, a noi piace raccontare sia la ricerca di base sia la ricerca applicata. A questo punto vi salutiamo. Buonasera a Guido Chelazzi, professore all'Università di Firenze. Buonasera. E buonasera a Stefano Focardi, ricercatore del CNR di Firenze. Buona ricerca. Grazie, a tutti. Buonasera. È passata mezz'ora e dobbiamo ritornare fra strade e macchine. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Augusto Iossa Fasano, benvenuto. Grazie, salve a tutti. Allora, lei è psichiatra, psicanalista e lavora in un campo molto particolare e molto interessante, anche strano, insomma, rispetto a tante cose, tanti tipi di ricerche di cui noi parliamo. E cioè, ormai siamo entrati da tempo e per certe cose invece ci stiamo entrando adesso in un'era dove le protesi, gli strumenti artificiali che mettiamo dentro il nostro corpo o esternamente, sono per esempio dei bracci che riusciamo ad applicare a persone che hanno avuto, appunto, hanno perso un arto. Ecco, questa attività è molto diffusa con casistiche veramente diverse. Lei parte da un dato che sta emergendo, e cioè che i rapporti fra l'umano e questo tipo di protesi non sono così lineari e semplici proprio dal punto di vista psicologico. Esatto, ho notato una triade, cioè ci sono protesi che sono poste all'interno del corpo, protesi miste che quindi sono in parte visibili, in parte nascoste perché impiantate all'interno del corpo, e protesi palesemente esterne. Sì. Le protesi classiche, sappiamo, la dentiera, la parrucca, il bastone, quindi diciamo i device classici, mentre invece ora la tecnologia ci offre dei device, peraltro salvavita, come per esempio lo Jarvik 2000, questo cuore artificiale che viene impiantato in attesa del trapianto di cuore, oppure l'Argus 2, questo occhiale che permette ai non vedenti di riacquisire parte della vista. E così come lo stimolatore cerebrale profondo e anche il comunissimo pacemaker con defibrillatore. Quindi abbiamo esempi di protesi interne e protesi miste, diciamo, che di solito nella mia osservazione non vengono sempre ben accettate. In alcuni casi residuano fenomeni di ansia, ossessività, impulsività, anche depressione, e che a mio giudizio sono correlabili con questi impianti e che mettono poi a dura prova sia il paziente, sia il familiare e sia l'operatore stesso, che a volte è disorientato, non sa in che misura attribuire un funzionamento, certo, positivo, capisco, al corpo, però un non sempre pieno gradimento da parte del Ma paziente. Questo perché lei, stabilendo un rapporto con queste persone che indossano, nel senso più generale del termine, questo tipo di protesi, vede emergere dei problemi che però sono esplicitati come problemi connessi al fatto che hanno una protesi e la stanno portando da tempo, magari. Sì, in alcuni casi sono decisamente esplicitati e sono palesi. Prendiamo per esempio il cuore artificiale, l'Arc 2000, che viene impiantato con successo, che per mesi o anni può aiutare il paziente a sopravvivere. Bene, c'è un cuore meccanico inserito all'interno della cassa toracica con un elettrodo che è visibile, che entra nella calotta cranica, e un enorme cinturone con le batterie. Quindi a quel punto è autonomo, però deve fare un training che peraltro gli operatori riescono un attimo a fargli fare, ma tutto ciò è chiaramente problematico, quindi porta una serie di disagi soggettivi e anche una serie di tensioni, per esempio all'interno dell'equipe che li devono impiantare, no? Sì. E quindi tutto ciò, a mio giudizio, merita studi, misurazioni quantitative e anche soprattutto consulenza ai pazienti, ai loro familiari e anche agli operatori, che a volte sono frustrati o disorientati. Certo, anche lei dice anche i familiari, perché è chiaro che sono vicino a un soggetto che manifesta un disagio e devono riuscire a capire che questo è un disagio reale. Ecco, ma le chiedo, si può immaginare per esempio che un disagio è quello di non fidarsi di quello che sto indossando e quindi avere una costante sensazione di paura che questo apparecchio, che non è quello naturale, possa incepparsi? Ecco, quindi questo potrebbe, ma mi pare di capire che invece ci sono dei disagi più profondi. Sì, esatto, cioè c'è una specificità relativa alla novità della tecnologia, ma soprattutto rispetto a una variazione del profilo identitario, cioè a quel punto mi hanno guarito, mi hanno salvato la vita, ma chi sono io? Certo. Conscio o inconscio, hanno a che fare a questo punto anche con un elemento terzo con cui bisogna fare i conti e con cui nella mia esperienza non è difficile aiutare le persone ad adattarsi. Cioè, quindi da un lato c'è questa novità, questa angoscia, questo perturbante che sembrerebbe dover richiedere, non so, anni di trattamento. In realtà le persone gradiscono già una semplice intervista, una piccola scala di valutazione che noi gli poniamo, perché già la prima forma di attenzione a questa variazione identitaria piuttosto imponente che loro subiscono con l'intervento salvavita all'impianto del device. Quindi fortunatamente però è un disagio che si può trattare. Senta, potrebbe sembrare una soluzione invece vincente il trapianto di un organo che è di un'altra persona deceduta, insomma, sono cose che si fanno e che però è umano. Sì, sulla stampa vengono date ogni tanto news piuttosto trionfalistiche sul fatto che tecnicamente è possibile trapiantare un arto da donatore cadavere o per esempio l'utero ultimamente, e così anche sui siti medici. Queste notizie vengono date con un'abbondante dose di ottimismo. Nella mia esperienza invece bisogna stare molto attenti, perché c'è sicuramente la questione che per esempio nel fegato e nel cuore funziona benino, ormai abbiamo oltre 20 anni di esperienza con sopravvivenze a lungo termine. In altri casi invece, per esempio nel trapianto del braccio, si è visto che è preferibile, è più accettato il trapianto e l'impianto di un arto bionico. Quindi bisogna fare molta attenzione che quando anche l'organo, l'arto è tecnicamente impiantabile o trapiantabile, tutto ciò porta una serie di questioni anche di tipo etico. Pensiamo al trapianto di utero. Una donna sterile riceve un trapianto di utero da cadavere, può a questo punto procreare, fare addirittura uno o due figli e poi riceverà l'espianto. Beh, tutto questo secondo me è da prendere con grande attenzione. Quindi a questo punto io considero il ruolo dello psichiatra, dello psicologo e anche dello psicoanalista come importante, mentre invece non viene mai nominato, è sempre reietto, è sempre marginale. A questo punto invece si deve cominciare a pensare a una apertura di un campo multidisciplinare con un inserimento di queste figure più o meno stabilmente con i consulenti dell'equipe chirurgica. E mi viene da dire che dovrebbe essere una presenza che si esprime prima, durante e dopo, no? Cioè preparatoria, esatto. Anche nel momento cruciale, che sono i giorni in cui avviene poi per esempio un trapianto di utero, e poi dopo nella gestione della cosa. Sì, lei evidenzia un vuoto terapeutico in quello che sì, si fa teorico, oggi. Anche teorico, di tipo di studio osservazionale e poi di paradigma. Ecco, allora io ho presentato il mio paradigma bionico propedico, che dovrebbe contribuire all'avanzamento della conoscenza, ma anche al contributo tecnico. Attenzione però, non sempre riusciamo a fare la consulenza preoperatoria. Nel caso in cui la persona viene operata d'urgenza, come per esempio degli infarti del miocardio, viene dato uno stent, o insomma il bypass, a volte anche un defibrillatore, quindi quando viene operato d'urgenza la persona viene impiantato a sua insaputa, si sveglia con questo device. Allora è importantissima la collaborazione tra uno psicoprotesiologo, quindi qualcuno che come me se ne occupa, e l'equipe medica e anche i familiari. Quindi sto proponendo qualcosa che sia ottimizzante. Cioè, a questo punto io non sono affatto contro la tecnologia, anzi sono estremamente favorevole, ma propongo che ci sia un'integrazione e un'ottimizzazione, cioè al fine anche di fare, anche di ottenere dei risparmi. Per esempio propongo persino che ci siano delle è possibile che ci siano anche delle riduzioni dei contenziosi legali, quindi una riduzione dei premi assicurativi, ad esempio. Certo. Se funziona meglio il device, la persona è meno rivendicativa contro malfunzionamenti o presunti disagi, che peraltro non sono ancora inseriti neanche sempre nel consenso informato. Quindi vede che c'è un campo sia psicologico, sia medico-chirurgico, ma anche medico-legale. Medico-legale. Che si apre. Cioè, parliamone, perché sono problemi risolvibili. C'è un bel vuoto proprio. A mio giudizio sì, io ho scritto Fuori di sé nel luglio 2013, che ha avuto un gran bel consenso. Ora mi accingo a scrivere, diciamo, lo sviluppo, la prosecuzione di questo libro, ma nel frattempo offro anche un'idea più divulgativa, perché il problema a questo punto riguarda tutti, non solo i trapiantati, gli operati, i portatori di varie disabilità, e siamo tutti portatori di device, e tutto ciò secondo me contribuisce a una crescita, a uno sviluppo anche della mente, però studiamola, e tutto questo non sempre riceve riconoscimenti e finanziamenti. Da un po' di tempo c'è attenzione da parte di enti pubblici e privati, fondazioni, per portare avanti questi studi. Secondo me è un campo di un interesse estremo che va dall'etica, persino alla teologia, perché riguarda l'immortalità, fino ad aspetti molto tecnici e specifici che riguardano fisioterapisti. Pensi all'esoscheletro, per esempio, che non è sempre gradito ai fisioterapisti, perché non devono fare le loro vecchie manovre di riabilitazione, ma devono fare tutt'altro. Molteni a Villa Masnaga sta facendo uno splendido lavoro, e il mio paradigma viene accolto con molto gradimento, perché ci consente di decodificare anche la tipologia di disagio a cui può andare incontro il paziente. Per questa puntata abbiamo finito. Non so se tu hai qualcos'altro. Ricordiamo che Mebius torna sabato prossimo. Buona settimana a tutti e tutte.